L'obiettivo, naturalmente, essendo noi delle organizzazioni di rappresentanza e quindi dovendo fare svolgere come missione quella di rappresentare al meglio le nostre cooperative associate, la prima funzione, il primo obiettivo è quello di rappresentarle meglio. Naturalmente rappresentarle meglio significa dialogo con le istituzioni, con la politica, significa lavorare ad avere una buona regolazione, significa anche costruire un rapporto migliore all'interno dei nostri mondi, quindi collaborazioni anche di tipo imprenditoriale, quindi le cooperative che collaborano tra di loro, costituendo consorzi, costituendo filiere, migliorando in buona sostanza le loro performance. Ecco, il coordinamento è solo per il settore alimentare, che comunque rappresenta un quarto del vostro fatturato? No, il coordinamento è per tutte le nostre associazioni, per tutte le nostre attività, perché è stato sottoscritto da Legacoop, AGC e Coop Cooperative, che sono, diciamo, le organizzazioni ombrello, madre, che rappresentano tutti i settori. Perfetto. E quindi voi vi presenterete d'ora in avanti con un unico soggetto, un unico rappresentante, ho ben capito? Esattamente, avremo un portavoce unico. Le tre associazioni rimangono in vita e mantengono i loro organi, ma i tre presidenti si coordineranno tra di loro, definiranno le posizioni di questa che abbiamo nominato, denominato Alleanza delle Cooperative Italiane, e a partire da questo tipo di posizioni poi avremo un portavoce unico che si rapporterà con le organizzazioni. Cioè, volete fare massa critica ancora di più, mettetevi assieme, non c'è nulla, anzi l'abbiamo visto. Certamente vogliamo fare massa critica, ma vogliamo fare con molti e diversi obiettivi. Prima di tutto, ad esempio, noi vogliamo affermare sul piano prima di tutto culturale l'idea che avere una pluralità di forme di imprese è un bene per il mercato e per la società, e quindi che competano tra loro imprese che hanno finalità di fare profitti o finalità mutualistiche come le cooperative, o imprese pubbliche o imprese non profit, è un bene per il mercato, perché nel mercato queste diverse imprese con loro particolari caratteristiche potranno dimostrare se sono più efficaci, più efficienti, se rispondono meglio ai bisogni delle persone. Quindi, ecco, su questo abbiamo un'idea anche sul piano culturale da affermare.